Comunque, se riparte il campionato e fanno una partita al giorno, se non ho divorziato dopo il lockdown, divorzio dopo. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Se non ci sono nuove complicazioni, ci sono grandissime probabilità che il campionato parta. Sinceramente penso che ce ne sono meno, questa è la mia opinione, quante meno non lo so, ho detto bisogna parlare di vetro, che una volta che parte il campionato finisce. È scoppiato il caos. I club e i calciatori di Serie A sono in rivolta contro il protocollo della Federcalcio. Nessuno vuole andare in ritiro per due settimane a partire da lunedì. Nel frattempo, in Germania. Bundesliga, die ab der zweiten Maihälfte wieder den Spielbetrieb unter den genehmigten und ja auch getesteten Regeln führen darf. Everybody, yeah. It's almost match day. Yeah. Everybody, it's almost Friday night. Bundesliga's back, damn right. Allora, questa canzone la assumiamo come spot dell'inizio del calcio e dello sport che accadrà domani. Grazie a Claudio Schiattone, Maria Lucchetti in redazione, Roberto Frisani e Gianmarco Ferronato in regia. Bene, siamo tutti bravi a dire dal divano che dalle catastrofi possono nascere fiori, possono nascere opportunità. Siamo tutti bravi a dirlo dal divano, poi bisogna farlo con coraggio e senso di responsabilità. Domani, come dice Rummenigge, miliardi di persone in tutto il mondo alle 15:30 ora europea, ora italiana quantomeno e tedesca, tutti saranno sintonizzati, me compreso, sulla Bundesliga che non è mai stata in cima alla lista dei miei passatempi preferiti, ma da domani lo sarà per me come per miliardi di altre persone. Saluto e ringrazio Jan Henkel, bravissimo collega di Sky Deutschland. Ciao Jan. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Beh, insomma, la frase dell'altro giorno di Rummenigge credo sia una specie di manifesto, no? Che dovrebbe essere valido un po' per tutti. Miliardi di persone guarderanno la Bundesliga da ogni angolo del mondo e questa è una grande vittoria non solo per il nostro calcio, ma per il nostro paese e per la nostra politica che con grande ottimismo ha permesso tutto questo. Sì, anche il capo della Lega Calcio ha sempre detto: noi possiamo fare questo passo di far giocare di nuovo la Bundesliga perché abbiamo la fortuna di vivere in un paese dove hanno gestito politicamente molto bene la situazione col coronavirus, che abbiamo un sistema sanitario che ci permette di fare anche tutti questi tamponi senza che questi tamponi pesano al sistema sanitario. Per questo hanno ringraziato, diciamo, alla struttura che offre la Germania politicamente il sistema sanitario. Però adesso, come ha sottolineato poco fa il ministro della Baviera, che in questo momento si vocifica che potrebbe essere il successore della Merkel se non si dovesse di nuovo ricandidare per essere cancelliere, ha detto: è una prova. Sono tutti sotto controllo, perché se dovesse continuare così come è successo in due casi che non sono stati rispettati le regole dell'igiene, potrebbe essere azzerato tutto. Chiaro, è un richiamo alla responsabilità. Sì. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao. Credo che anche tu domani ti sintonizzerai alle 15:30 sul campionato tedesco. Ma assolutamente ho grandissima voglia di vederla, di vedere soprattutto ovviamente il derby della Ruhr, ma anche le altre partite, però quello che stavamo dicendo adesso è fondamentale ed è quello che ripetiamo da due mesi qui in questa radio. Nessuno ha chiesto di partire a tutti i costi senza prudenza e senza attenzioni. La salute dei giocatori è fondamentale da ogni punto di vista, dal punto di vista umano e anche dal punto di vista delle stesse società, dal punto di vista patrimoniale, cioè sono loro le prime a voler evitare guai per i propri dipendenti, visto anche quanto rappresentano da tutti i punti di vista, e quindi però era giusto provarci. È chiaro che in Germania probabilmente sono più avanti di noi, perché hanno una situazione migliore, hanno gestito in maniera migliore tutta questa vicenda, con più terapie intensive, quindi con meno morti, probabilmente anche, ed è quello che voglio chiedergli, probabilmente anche senza meno conflitti, nel senso che per esempio il tema dei tamponi, dei tamponi ai calciatori sì e al resto del paese no, probabilmente lì è un problema ed è una polemica che non esiste, semplicemente perché lì i tamponi ce l'hanno tutti, o no? Sì, sì, allora il tema dei tamponi per i calciatori non è un tema, non è una polemica, perché veramente in tanti sottolineano sempre, allora, se noi dovessimo pesare con questi tamponi sul sistema sanitario, facciamo subito un passo indietro. Noi non vogliamo pesare sul sistema. È stato assicurato che non è così, il 0,3% questi tamponi. Poi anche altre situazioni, ogni tanto mi meraviglio io, nonostante che sono cresciuto qui in questo paese, hanno costruito a Berlino in pochissimo tempo un ospedale coronavirus con 458 posti di terapia intensiva, sta lì, se ne abbiamo bisogno c'è. Anche oggi hanno ripetuto, anche se abbiamo in questo momento solo 16.000 casi registrati in tutta la Germania, però ci prepariamo per il caso, se non è Covid-19 sarà Covid-20, non lo so che cosa, però questo ci accompagnerà per il nostro futuro e noi ci dobbiamo preparare e vanno avanti di migliorare ancora il sistema sanitario. Questa deve essere la premessa per tutti, l'importante è che non diventi un pretesto quello di nascondersi dietro a ragionamenti di tamponi per loro e non per gli altri, perché sì, sennò si rischia di arrivare nella demagogia. Non ci deve essere assolutamente un conflitto, ma questo è evidente, non ci deve essere un conflitto. Se in un paese le cose funzionano, questi problemi proprio non te li poni. Poi insomma, ieri lanciavo provocatoriamente, visto che il mondo del calcio sembra sempre che abbia qualcosa da doversi far perdonare, che le società potrebbero per ogni tampone che fanno ai propri giocatori donarne uno alla collettività, e questo potrebbe essere un modo, visto che poi i tamponi si possono fare, basta, e non sono neanche particolarmente costosi da quello che dicono i virologi, quindi è solo un fatto di organizzazione e di una minima spesa che chiaramente nel bilancio di una società di calcio ci deve stare, sì, come deve essere prevista una società di calcio. Il problema della spesa degli alloggi dei suoi dipendenti, ma a questo ci arriviamo, problema delle ultime ore del calcio italiano, senza dimenticare che c'è chi scrive quali miliardi di persone guarderanno la Bundesliga in tutto il mondo. Io sono pronto a scommettere che in ogni angolo del mondo la Bundesliga domani sarà vista con ogni mezzo, e questo sarà un affare colossale per le televisioni, per gli sponsor e per chi ha investito nel calcio tedesco. Di questo sono convinto ed è un punto su cui riflettere a proposito di creare opportunità dalle catastrofi. Però voglio chiedere ancora a Ian, come le tappe attraverso le quali si è arrivato alla ripresa della Bundesliga. Anche lì ci sono stati ritiri, ci sono state ovviamente delle restrizioni della libertà di movimento dei giocatori, ci sono stati ritiri, c'è il caso di Ehrlich, allenatore dell'Augsburg, che è uscito per comprare il dentifricio dall'albergo, si è autosospeso, non dirigerà la squadra dalla panchina, ha violato queste regole, si è autosospeso con senso di responsabilità anche nell'errore che ha commesso. Ecco, attraverso quali tappe si è arrivati lì, Jan? Allora, c'era sempre questo concetto della Lega Calcio, che è stato scritto anche da professori, virologi, politici e poi anche quelli del calcio, e questo concetto è stato approvato dalla cancelliera e dai ministri. In realtà la politica voleva 2 settimane prima dell'inizio un ritiro, però in questo concetto c'era scritto 7 giorni, e così adesso da minimo 7 giorni tutte le squadre sono in quarantena. Spero che tutti abbiano adesso un dentifricio. questa è veramente una polemica. Heiko Herrlich ha capito che ha fatto una cavolata, sarebbe stato il suo debutto da allenatore dell'Augsburg, e ha detto: sì, ok, non mi metto in panchina perché ho fatto veramente una cavolata di uscire dall'albergo e di non rispettare le regole. Adesso è il secondo caso, non così grave come il caso di Calù dell'Erta del Vino, che è stato proprio altra roba. Herrlich è un tipo particolare che vive un po' nel suo mondo e non l'ha fatto con cattiveria. Sicuramente stavo pensando alle tattiche, ha detto adesso esco un attimino, non ci stavo pensando, per questo anche questa autopunizione. Però questo caso viene di nuovo preso come ragazzi, è la vostra responsabilità. Bravo, se dovessero succedere altre cose del genere, dobbiamo fermare tutta la giostra. È esattamente questo il senso del discorso. La posizione dei giocatori lì qual è stata rispetto a questa necessità di vivere in questa situazione particolare? Tutti d'accordo? Sì, allora ci sono alcuni che tipo Neven Subotic, ex Borussia Dortmund, adesso sta giocando per Union Berlin, che ha detto noi non ha chiesto nessuno, se siamo d'accordo o no, noi dobbiamo eseguire le cose. Da una parte dico sì, hai ragione, però dall'altro lato non puoi chiedere tutti, alla fine sei un dipendente, hai firmato un contratto e il tuo datore di lavoro decide alla fine quello che devi fare. Poi c'è sempre la possibilità per ogni calciatore di dire io non me la sento, non gioco. Comunque questa rimane sempre. Però la assoluta maggioranza, il 90 più non lo so quanto per cento anche dei calciatori è contento di scendere di nuovo in campo, di giocare a calcio. Tutti sono curiosi adesso come sarà, perché anche le mascherine fino a un certo punto le devi tenere, poi quando vai in campo ovviamente no, però gli allenatori se hanno la distanza dalla panchina di un metro e mezzo la possono togliere, se no se la devono mettere. Piccole, alla fine, stupidaggini, tra virgolette stupidaggini, che poi saranno la curiosità, chi se la mette, chi non se la mette, chi alla distanza, chi no. Però adesso sono tutti sotto controllo. Una cosa che mi piace molto è quello che ha detto Zaifat, che è il capo della Lega Calcio. Lui ha detto, noi non cambiamo l'obiettivo è di finire la stagione, noi cambiamo solo strategia o pianificazione man mano che andiamo avanti, però l'obiettivo non viene cambiato, noi la stagione la finiamo. Una lezione in più che ci arriva, no, Pierluigi? Io provo un vago senso di invidia nei confronti della gestione di questa situazione, ma anche del senso di responsabilità che tutti i protagonisti di questa situazione stanno tenendo. Sì, io provo su alcune cose dell'organizzazione proprio invidia nei confronti dei tedeschi, su altre cose ovviamente mi tengo l'Italia, ma insomma voglio dire, è chiaro che sulla vicenda, su come è stata gestita la vicenda a 360 gradi, i tedeschi sono stati bravi, questo è indiscutibile. Anche noi siamo stati bravi alla fine della fase 1, perché poi insomma non c'è alcun dubbio che il nostro paese e gli italiani abbiano una grande dimostrazione di intelligenza e di lucidità nel rispettare le regole, nel capire che queste regole venivano date perché era interesse di tutti. Io lo sai come la penso, io non sono per riprendere a tutti i costi. A me quello che ha dato fastidio in alcuni momenti di questa vicenda è aver sentito, aver captato tra le righe una serie di posizioni che mi sembravano delle posizioni un po' strumentali fatte di fondo per non ricominciare a giocare, perché magari qualcuno poteva avere questo tipo di convenienza, o vedere il mondo del calcio trattato un po' populisticamente come il regno di qualche ricco di cui chi se ne frega. Ecco, no, invece il mondo del calcio è una filiera esattamente come tutti gli altri settori del paese, e quindi deve provare a capire se ci sono le condizioni per farlo. Poi io mi auguro che vada tutto bene in Germania, mi auguro che i campionati possano finire, mi auguro che presto possiamo tornare a avere la gente allo stadio, che è la cosa più bella di tutte, però insomma le incognite non mancano. Io credo che anche in Germania non manchino le incognite, insomma non è che lì è tutto rose e fiori. Sicuramente si è arrivati alla conclusione che, visto che il coronavirus comunque ce lo dobbiamo portare avanti ancora per un po' di tempo, speriamo poco, ma per un po' di tempo ce lo dobbiamo portare avanti, si debba trovare un modo di convivenza con questo coronavirus, perché il discorso è sempre lo stesso. Se decidere che non finiamo il campionato fosse il modo per andare a giocare la prossima stagione tranquillamente, io sarei strafelice, ma non è così, perché in ogni caso a luglio tu hai la nuova stagione. No, ma è chiaro, come dicevi tu l'altro giorno, non è che adesso la diamo su, come dicono a Bologna, e poi a luglio ci presentiamo belli belli a fare ritiri, perché non funziona in questa maniera. Se decidiamo che non c'è un modo per convivere perché il calcio possa convivere, il calcio e lo sport possano convivere col coronavirus, forse ci rivediamo veramente nel 2022. Benissimo, il 2022, quindi, e vediamo che cosa ci sarà dentro, esatto, allo sport, esatto, all'alba del 2022. Ancora una cosa volevo chiedere a Ian, cioè il sentimento della popolazione nei confronti del campionato, hanno tutti voglia di rivedere il calcio, di vedere queste partite, sebbene in questo contesto così strano c'è curiosità, oppure c'è una parte dell'opinione pubblica che dice no, non ce ne frega niente, o sì, siamo, certo, contrari? Allora, come dappertutto, non hai tutta la popolazione che è interessata al calcio. Noi poco fa ho visto una statistica che 20 milioni di tedeschi guardano ogni fine settimana in qualche maniera il calcio. Poi altri 20 milioni, comunque un totale di 40 milioni più o meno sono interessati. Però noi abbiamo 80-85 milioni come popolazione, per questo c'è una gran bella parte che del calcio non ne fa niente. Sì, chiaro. E per questo dicono anche, ma perché tutta questa attenzione al calcio? Poi lo mettono giustamente anche sul piatto, è un'industria, è un'azienda, come le altre aziende devono riprendere il lavoro, e questo è un lavoro, questa è economia. E intorno al calcio ci sono in Germania 55.000 posti di lavoro, anche questo poi vale, e l'hanno messo un po' su questo piatto. Se posso dire un'altra cosa, tutti questi elogi per la Germania, però la Germania invidia tanto anche all'Italia. Poi meno male. No, in tutti questi anni che ho visto, 16 anni ho vissuto in Italia, c'è una frase che secondo me è la migliore, che descrive benissimo, diciamo, i due popoli. I tedeschi amano gli italiani, però non li stimano. Gli italiani stimano i tedeschi, però non li amano. Ma guarda, ieri sera Beppe Severgnini in un programma sulla 7 diceva una cosa secondo me bellissima, che racconta una cosa che io credo agli italiani, che mi rende orgoglioso e fiducioso sul futuro, cioè che se non c'è una strada gli italiani poi la disegnano, sì, la trovano, cioè sì, quando ci sarà da mettere sul piatto la fantasia e la capacità di uscire dai problemi con l'immaginazione, gli italiani sono sicuramente i numeri uno. Certo, se avessimo avuto, tanto per banalizzare, il doppio delle terapie intensive, ma prima, non con l'ospedale fatto in fretta e in furia, che adesso paradossalmente è addirittura vuoto, se le avessimo avute prima, probabilmente l'impatto di questo virus terribile, comunque terribile, non sarebbe stato lo stesso, probabilmente l'avremmo vissuto con una tranquillità nettamente superiore. Quindi è il solito discorso, è la solita dicotomia fra organizzazione in anticipo, prevenzione in anticipo, e invece poi la capacità, che noi abbiamo sicuramente, ce la teniamo stretta con tutti i nostri pregi e ci amiamo tanto, di poter poi trovare sicuramente nella fantasia delle soluzioni anche all'ultimo minuto. E questo gli, sì, italiani, ma io ti ripeto, in questa vicenda ti ricordi quanti profeti di sventura c'erano, giustamente, sul fatto che l'epidemia si potesse allargare in maniera terribile, il famoso esodo, eravamo preoccupati tutti. Poi alla fine invece evidentemente la gente è razionale, capisce, ha, sì, capito, quindi il problema è che non buttiamoci giù. A me un po' viene voglia per le ultime ore, perché ieri eravamo a quest'ora con Malagò che diceva, pur magari controvoglia, che al 99% il calcio ricomincerà. Lunedì dovevano ricominciare gli allenamenti, arriviamo alle ultime ore e scopriamo come Inter, Milan, Napoli e molti altri club dicono no, noi con queste regole non ricominciamo perché non abbiamo la possibilità di garantire alloggio ai nostri dipendenti, che non sono centinaia ma una quarantina. Ora, che la cosa fastidiosa in queste ore è che non ti raccontino la verità, nessuno ti racconta la verità, cioè la sua posizione precisa. Cominciamo, va bene, tutti d'accordo nel ricominciare, però adesso si scopre ieri che non ci sono le possibilità di ospitare i giocatori negli alberghi, nei pressi dei centri di allenamento. E allora di cosa stiamo parlando? Cioè, questo che mi chiedo e che mi fa anche discretamente arrabbiare, no? E di cui non trovo una risposta. Non so, cioè, se tu hai qualche idea in proposito, Piero. No, io l'idea in proposito non ce l'ho, nel senso che il tema vero secondo me è se c'è buona volontà oppure no, ecco, se tutti remano dalla stessa parte oppure no. E in questa vicenda, come dicevo qualche minuto fa, secondo me ci sono state in certi momenti da parte di molti delle furbizie, in un senso o nell'altro, perché pure una certa accelerazione eccessiva che c'è stata da parte di chi voleva giocare a tutti i costi è stata esagerata. Insomma, richiamare, lo dico con chiarezza, i morti da una parte o dall'altra perché si vuole giocare a tutti i costi o perché non si vuole giocare proprio, non è proprio elegante, non c'entrano niente, questo, non c'entrano niente i morti, tanto per essere chiari. Oppure trasformarsi in presidenti virologi e dire che l'epidemia crescerà o diminuirà, perché lo sappiamo, ecco, insomma, abbiamo assistito a un po' di cose francamente stonate, quando poi invece l'obiettivo fondamentale di un sistema paese, di una filiera, dovrebbe essere cercare di mettersi tutti intorno a un tavolo, consapevoli dei rischi che ci sono, consapevoli dei problemi che ci sono se non si riesce a giocare dal punto di vista, ripeto, economico della filiera, non dello stipendio del miliardario, perché insomma i nipoti di Cristiano Ronaldo non penso avranno mai problemi, o quelli di Ibrahimovic non avranno mai problemi dal punto di vista del conto corrente bancario, ma è tutto il sistema. E devo dire che da questo punto di vista mi risulta che comunque dei passi avanti siano stati fatti, ad esempio col riconoscimento della cassa integrazione per i lavoratori sotto i 50.000 euro del mondo del calcio, cioè nelle ultime ore, anche grazie alla federazione e anche al governo, insomma, da quello che mi risulta sono stati fatti dei passi avanti sul riconoscere al calcio un ruolo. Che poi è quello normale, perché è una delle grandi industrie del paese ed è un'industria che con tutti i suoi limiti non ha neanche poi mai troppo chiesto cassa allo Stato, no? Cioè comunque alla fine in alcuni periodi è cresciuta, in altri periodi è calata, ma insomma ha mille difetti, ma certamente il mondo del calcio non vive di assistenzialismo da parte dello Stato, chiaro, in condizioni normali. No, no, poi si tratta di capire anche esattamente qual è la posizione dei giocatori in Italia, perché anche quella non mi è chiarissima. Li abbiamo difesi molte volte e continueremo a farlo dagli attacchi demagogici di una certa opinione pubblica e di una certa politica. Ma a tutti noi può capitare di dover stare via da casa per un certo periodo di tempo per ragioni di lavoro. Se devono stare a fare allenamento per due settimane senza avere contatti con gli altri perché questo è il loro lavoro, questo gli richiede in questo momento il loro lavoro, non credo sia il caso di avanzare delle lamentele o dei distinguo. Volevo chiedere a Ian, poi lo saluto, anzi saluto tutti perché poi arriva Nibali nella seconda parte del nostro programma. Volevo chiedere a Ian se in Germania c'è fiducia invece sulla ripresa del campionato degli altri, negli altri paesi. C'è la speranza. E qui dicono anche, speriamo che il nostro inizio della Bundesliga potrebbe funzionare come locomotiva per gli altri. Sì. Anche Seifert, il capo della Lega Calcio, ha detto il nostro concetto non ce lo teniamo per noi, potrebbe essere anche una coppia per il campionato in Italia, chiaro. Potrebbe essere anche per la NFL negli Stati Uniti, perché alla fine i problemi sono più o meno gli stessi e qui c'è adesso un concetto che è stato approvato da uno Stato e da un sistema sanitario. Per questo la speranza c'è di poter andare avanti. Anche la Coppa Germania adesso è stata, sappiamo adesso quando si gioca, la semifinale e la finale, si va avanti. E poi con un esempio, poi chiudo, visto che a Brescia in Serie B tutta la squadra, tutta la società è stata messa in quarantena adesso per due settimane, non c'è polemica, è brutto per loro perché non possono giocare le prime due partite, però hanno detto sono 81 partite, per due partite che non possono giocare all'inizio dobbiamo chiudere tutto, no, andiamo avanti, ci adattiamo, chiaro. Hanno accettato questo concetto e adesso tocca al Brescia e anche loro hanno detto adesso questa è la situazione, però poi si tratta di affrontare la situazione perché c'è volontà di affrontarla. Ian, grazie davvero, buon lavoro. Grazie davvero, buon lavoro e saluto anche Pierluigi Pardo. In bocca al lupo, assolutamente. Abbiamo tutti bisogno di un pizzico di fortuna. Questo è chiaro. Allora, ci fermiamo per la borsa, poi c'è Vincenzo Nibali a tutti i convocati. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. There's a perché il Mosquera vince la tappa, ma Vincenzo Nibali, signori, possiamo dirlo, vince la Vuelta a Spagna. Grande Vincenzo. Per oggi lo squalo è diventato un toro. Beh, lo squalo, uno squalo toro, esiste anche lo squalo toro. Esiste anche lo squalo toro. E adesso finalmente la maglia rosa sta andando a conquistare la prima tappa di alta montagna con arrivo in salita. Lo fa in maglia rosa, lo fa alla maniera dei grandi ed esulta sul traguardo Vincenzo Nibali, ha il Giro d'Italia più che mai in tasca. Vincenzo Nibali che porta il tricolore, vincitore della piccola Parigi-Roubaix, chiamata la tappa del Pavea. Adesso è il momento di fare vittoria di tappa e maglia. Vincenzo Nibali, giù il cappello, perché è un corridore davvero straordinario. Ha vinto la Vuelta, ha vinto il Giro d'Italia e va a vincere la sua prima tappa quest'anno al Tour de France. Nessuna gioia per una vittoria poteva essere paragonabile a quello che si prova quando ci si trova su questo podio, sugli Champs-Élysées. Ora che mi trovo veramente qui, sul gradino più alto, devo dire che è ancora più bello di quanto potessi immaginare. Riprendiamo la serie dei tutti convocati d'eccezione, degli illustri tutti convocati, non Pieraguso Staggi che è un amico. Ciao Pier. Ciao Carlo. Ciao, ciao. Ma un'icona del nostro sport, non solo del ciclismo. Ciao Vincenzo Nibali. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti. Ho letto che l'altro giorno sulla prima pagina del Corriere dello Sport che eri un teppista e che la bici ti ha salvato. Quasi quasi cadevo dalla sedia, ma Staggio ti conosce meglio di me. Io non ci credo, da piccolo. È la verità, ma non l'ho raccontato solo adesso, l'avevo già detto anche in passato, qualcosa anche sul mio libro c'era già scritto, sì, ero iperattivo e quindi ne combinavo di ognunque. E la bici, insomma, mio papà mi faceva uscire in bici e mi riportava a casa quando ero sfinito, quindi ero bello tranquillo. Quando lo faceva stancare in bicicletta, direi che Pier l'allenamento ha funzionato. Ma tu un episodio da Vincenzo Nibali Giamburrasca lo sai? Ma guarda, io in realtà non ho vissuto, io il Giamburrasca, Nibali Giamburrasca non l'ho conosciuto, ho conosciuto alcuni suoi racconti, perché frequentandolo ho imparato a conoscere il Nibali più vero, più autentico, che confermo per molti passa, e forse la colpa anche un po' nostra, non è solo di Vincenzo, che comunque è un tipo riservato, che prima di aprirsi logicamente cerca un briciolo di capire chi ha di fronte, non può pretendere, ormai è riconosciuto e riconoscibile da tanti anni. Però chi lo conosce ha la fortuna di conoscere e frequentarlo, soprattutto lui ha una caratteristica che si lega a delle persone con le quali va d'accordo, e lui è un vulcano, non sta mai fermo. Lui, ad esempio, ho visto coi miei occhi quando mi invitò la prima volta in Svizzera a vedere la prima casa nella quale è andato a vivere con Rachele, era talmente entusiasta per farmi vedere questa casa, come era stata costruita, come era stata progettata, dove avrebbe mandato all'asilo la sua bimba, perché lui ci vive veramente, uh-huh. Vorrei sottolinearlo, non è che lo fa così solo per sì, anzi no. Ci vivrà, no? E, però siamo ma la cosa, tanti che comunque sì, siamo ormai che viviamo tutti i giorni, perché è diverso dal passato, quindi completamente diverso. Però come dici te, sì, appunto, cavolo, quella era la prima casetta quando stavo lì, ora è cambiato un po', mi sono trasferito, sto sempre qui un poco vicino, però cavolo, non c'è stato più occasione che sei venuto a trovarmi. Infatti ti volevo dire, cavolo, hai fatto la casa con la piscina, non mi è più voluto, però volevo finisco no, il racconto fatta, per dirti. Ho preso il pacchetto completo, quindi... Finito il racconto, cioè finisco il racconto, vado lì con Vincenzo e Vincenzo si metteva, ha cominciato a montare le tende, a smontare una lavatrice, e lì ho scoperto che non era un modo di dire che Vincenzo non sta mai fermo, che Vincenzo deve fare sempre qualcosa. Lui ha una passione sconfinata nel montare e smontare. Poi non ti dico, ero andato col fotografo per fare un servizio. Vincenzo è un amante della fotografia, sa anche di macchine fotografiche, è un ragazzo tutto da scoprire. Tu vai là con un giradischi, per fortuna... sono sicuro che lui ti sistema anche il dual. No, i vecchi giradischi. Quella delle macchine fotografiche, però, è colpa di mio papà. È stato lui che ha aperto al tempo, che ancora hanno la bottega, quindi. Noi si andava alle corse, facevamo le fotografie agli amatori, ma anche quando correvo io lui faceva le foto e poi la domenica dopo gli rivendevamo le foto, quindi è una passione, più che passione era il lavoro di famiglia su quello là della fotografia. Quindi cosa ti è rimasto della Sicilia ancora adesso, Vincenzo, o meglio cosa ti manca quotidianamente della Sicilia, al di là degli affetti ovviamente personali? Come detto, certamente gli affetti, poi il mare prima di tutto, perché comunque anche la città di Messina, con questo stretto molto particolare, il mare che cambia continuamente giorno dopo, perché un giorno magari vedi questa calma piatta, un giorno vedi una bellissima crociera, un giorno vedi l'Amerigo Vespucci, quindi queste cose qui, perché non è, diciamo, la solita vista che tu hai tutti i giorni, è un continuo paesaggio che cambia sempre, quello del mare, e questo mi manca tanto. E poi comunque anche tutte le insomma, il calore della Sicilia è difficile da poter spiegare, girare i profumi, la terra, quindi sì, quello c'è sempre. Un po' meglio il mare della Sicilia di quello della Svizzera, ma quello anche quando sono in Toscana mi mancava, per carità, però ormai sono tantissimi anni che sono fuori dalla mia città natale, quindi quando capita l'occasione faccio una piccola trasferta, vado proprio come in vacanza per me, quindi mi piace ritornare. Però io purtroppo sono andato via dalla mia città natale quando avevo 15 anni, quindi effettivamente quella è rimasta la mia casa. Poi mi sono sempre spostato, ho sempre viaggiato, però un punto fisso, stabile, diciamo che non l'ho poi raggiunto se non negli ultimi 8 anni, ecco. Senti, calendario ciclistico un po' complesso, un po' composito, con intrecci di grande corso, forse era fatale, ci sono state delle polemiche, si impongono delle scelte. Io vedo il mio punto di vista, è chiaro che tante cose non vanno ancora tanto bene, però io credo che il calendario subirà dei continui cambiamenti, perché non è facile inserire tutte le corse in un periodo così molto intenso e stretto come stiamo vedendo, perché se le gare iniziano ad agosto, da agosto andare a novembre c'è pochissimo spazio, quindi è normale, non è semplice poter inserire tutti gli eventi. Secondo me bisogna un attimo privilegiare le corse d'eccellenza, è chiaro che quelle un pochino più piccole devono un attimino adattarsi al calendario, avere una gara infrasettimanale, però è chiaro che tutte le squadre comunque hanno circa dai 25 ai 30 atleti, tutti e 30 non è che correranno il giro, il tour o la vuelta, si divideranno i gruppi, si divideranno. Sì, tu Piero Augusto come lo vedi il calendario dal tuo punto di vista? E dal mio punto di vista lo vedo affollatissimo, però è anche cosa vuoi fare? Purtroppo una stagione di 9 mesi condensata in 3 mesi ed è chiaro che ci sono delle sovrapposizioni e bisogna fare di necessità virtù. Si grida lo scandalo, il Giro di Lombardia l'8 di agosto, quando vuoi correrlo bisogna cercare di mettere le classiche. Io trovo anche scandaloso, diciamo, al momento come è stato piazzato il campione italiano, uno allora in questo momento è il primo di novembre, mi sembra un po' in là, hai due mesi con la maglia e basta, se devi fare il tricolore, quindi anche quello lì non lo so quanto sia giusto, logico spostarlo in quella data, però è tutto una bozza al momento, non è stato convalidato niente, non è stato confermato niente, sicuramente in corso io penso che in corso troveremo dei cambiamenti, almeno lo immagino, lo spero. Tanto il solo pensiero di vedervi in bicicletta, di vedere una partita di calcio, io vivo nell'attesa di Borussia Dortmund, Schalke 04, e come ha detto giustamente Rummenigge, vedranno miliardi di persone in tutto il mondo. A proposito, ore 15:30 di sabato, non prendete altri impegni, però si polemizza anche sui calendari di altri sport, Vincenzo. Se si aspetta il rischio zero in tutti gli sport con questo maledetto virus, rischiamo di non avere più uno sport professionistico. La polemica c'è sempre stato su tutto, quindi bisogna anche valutare la polemica. È giusto, come dire, prendere le giuste precauzioni per gli eventi sportivi, che sia del ciclismo, del calcio o tutti gli altri sport. Le precauzioni ci vogliono, quello certamente, sì. Però la ripartenza ci deve essere, perché comunque bene o male tutti gli stadi stanno ripartendo. Anche qui dove sono io, visto che da oggi i bar erano aperti, quindi c'è un senso logico a tutto questo. Bisogna ripartire, ma non bisogna fare terrorismo su tutto, ecco. Assolutamente. Lo dicevo prima a Pier Augusto, non mettere nello stesso sacchetto lo sport professionistico e lo sport amatoriale, perché sono due cose profondamente diverse. Entrambe hanno dignità, ma sono settori, mi viene da dire, industriali differenti, Comunque lo sport professionistico non è per fare una discriminazione, però il ciclismo professionistico in tutti i settori è sempre stata la vetrina di riferimento. È chiaro che deve essere così. Dicevi, Pier? No, appunto, che comunque lo sport professionistico in senso lato, non solo ciclistico, è comunque dà la possibilità a tutto lo sport minore di vivere e sopravvivere. Io mi nutro di Nibali, di Aru, di Bettiol, di Diego Ulissi, cioè di ciclismo, però è chiaro, sono consapevole, mi piace tutto lo sport, in particolare anche il calcio, ma il calcio non dobbiamo criminalizzare perché sono ricchi, sono calciatori. Il calcio dà da vivere non solo al mondo del calcio, con le sue tasse mette nelle condizioni tutto il mondo dello sport di vivere. E mi sembra strano che alcuni che di lavoro fanno quello, cioè i dirigenti sportivi, abbiano qualche difficoltà a comprenderlo. Sì, questo mi spiazza. No, spiazza tutti quanti noi. Spiazza tutti quanti noi. L'altro giorno, parlando con Elia Viviani, diceva: il ciclismo senza gente è surreale. L'ha vissuto in alcune tappe di quella rocambolesca, un eufemismo, parigi-Nizza. Il ciclismo, comunque, il Giro d'Italia ti permette di seguirlo un secondo anche sulla strada. Si può riuscire a tenere la distanza. La problematica sono più gli arrivi o i passaggi in montagna, perché anche quando si passa in città tu vedi le persone, i nuclei familiari che sono sul terrazzo che aspettano che passa il passaggio del giro, quindi è già diverso. Se c'è il nucleo familiare che sta insieme e guarda il passaggio del giro, dura 10 secondi, un minuto massimo, diciamo così, va anche bene. Il problema per noi sono i passaggi in alta montagna, dove si prevede un tantissimo pubblico, gli arrivi e le partenze. Quindi se togli il pubblico in questi due momenti, è chiaro che il cinismo soffre tanto, però il cinismo l'appassionato lo vive anche dalla TV. Non c'è dubbio, come dice Trentin, limiti per il pubblico in una situazione così, meglio quelli che non correre del tutto, e questo credo vale per tutti gli sport. Mio papà è un grandissimo appassionato, va in bici tutti i giorni, ma lui in tutti i miei anni di carriera a vedere le tappe del giro, di tour, sarà venuto al giro sarà venuto 3 volte, al tour non è mai venuto se non che a Parigi, e lui le gare le ha sempre seguite in TV, nonostante ha un figlio che è due che sono professionisti. Quindi questo gli fa capire anche come vive l'appassionato il momento di vivere e di seguire il ciclismo, ecco. Io non ho mai visto una tappa senza pubblico, ma credo nessuno, neanche Stagi, che pure segue il ciclismo dagli anni 40. L'abbiamo viste alla Parigi-Nizza quest'anno. Sì, i francesi hanno già provato questo nuovo format, un po' deriso, un po' preso in giro, un po' da tutti. Io anch'io ero, devo dire, perplesso, però grande e profondo rispetto per i francesi. Devo dire che anche in quell'occasione hanno dimostrato di essere un passo avanti a tutti, e devo dire, Vincenzo ha corso molto bene, peraltro, quella Parigi-Nizza, che è sostanzialmente l'unica vera corsa che abbiamo visto quest'anno, molto divertente, però non mi risulta che ci siano stati quei problemi a livello di salute pubblica. Cioè, ma comunque a me, grazie al cielo, voglio spezzare una lancia a favore sempre del pubblico. Io faccio un esempio: il pubblico nostro è sempre stato molto pacato, è sempre stato molto molto buono, molto molto bravo, quindi eccetto alcune situazioni. Però io voglio ritornare, per esempio, alla mia memoria quando è morto il povero Weiland. Mi ricordo che il giorno dopo c'è stata la tappa, l'intero pubblico della tappa di 220 km che abbiamo trovato lungo la strada ha applaudito in grandissimo silenzio il passaggio di tutta la carovana del Giro. Quello fa capire come comunque tutti i fan vivono le esperienze, quindi un'esperienza triste che è stata al tempo è stata tantissimo rispettata, senza schiamazzi, senza musica, senza grandissimo clamore. Io penso che anche una ripartenza con il pubblico che sta comunque a debita distanza e rispettano tutte le regole si possa fare tranquillamente il nostro sport. Ecco, tutto qui. Ragazzi, vi chiedo un istante di pazienza, sentiamo il traffico, torniamo subito. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Vincenzo Nibali, sei l'uomo, uno dei sette della storia del ciclismo, questo lo sanno tutti, è una domanda da trivial ma di quelle facili, ad aver vinto tutti e tre i grandi giri. Qual è il sogno più grande che ti resta? Mi sembra di essere Marzullo. non saprei, ce ne sono diversi, quello di indossare sicuramente una maglia di campione del mondo è uno di quelli, di quei sogni che sono sempre lì, sogni nel cassetto, no? Forse essendo riuscita a vincere delle belle classiche, anche questi grandi giri così, il pensiero alla maglia arcobaleno lo fai, no? È normale. Le Olimpiadi slittate, quindi come obiettivo è normale che ricade un po' sui campionati del mondo, quindi vediamo. Pier Nibali ridato, io ce lo vedo bene. Magari non mi dire niente, farei come Nibali, nel senso che farei tutti gli scongiuri, perché io lo vedrei anche bello con una medaglia, perché lui aveva già al collo una medaglia di valore pregiatissimo e a me è rimasta lì lungo una discesa a pochi chilometri dal traguardo. A me andrebbe bene anche un oro lì. Le condizioni del caso, purtroppo bisogna mettere anche questi inconvenienti in una carriera, io penso questo qui, ecco, voglio essere positivo così. L'altro giorno parlando con Malagò diceva: non ho problemi e preoccupazioni per tutti i nostri atleti, che da Federica Pellegrini a Vincenzo Nibali a Montano, ho parlato con tutti, ci saranno, scommetto che all'Olimpiade ci saranno tutti. Sicuramente sì, quindi ce la metteremo noi tutti a dare il meglio e il massimo. Leggevo ieri, parlavo con Magnini, leggevo la sua intro nel libro Resistenza dell'acqua eccetera, diceva praticamente le stesse cose che hai detto tu a proposito della bicicletta, cioè nel momento in cui ci salgo tutto il resto scompare e lì mi sento veramente in pace con me stesso. È una cosa che lo pensano in tanti, lo hanno provato, infatti molte persone scoprono la bici magari un po' più in tarda età, magari prima per tanto tempo hanno giocato a calcio, nel momento che magari hanno avuto poi qualche problema con una caviglia, con un ginocchio, gli è stato consigliato di fare una riabilitazione con la bici. Da lì si scopre la bici e si vive tutto un altro mondo, ecco, perché la bici ti permette, mentre pedali, di poter pensare, viaggiare, vedere posti nuovi, tantissime cose, quindi è sicuramente uno sport che la mente viaggia e si apre tantissimo. Pier Augusto Stasi, cioè, ci racconta tutte le corse di bici, come ti immagini, Pier Augusto, la stagione che verrà dal punto di vista dei protagonisti? Devo proprio immaginarla, perché ci sono ancora tanti punti di domanda, c'è un calendario. Io intanto spero che si possa correre, sono molto fiducioso per la ripartenza francese, internazionale, sono un po' preoccupato, lo dico, per quella italiana, ma non perché non ho fiducia negli organizzatori italiani, non perché non ho fiducia nella RCS Sport e quindi nel Giro, Sanremo e Strade Bianche, ma perché vedo le difficoltà governative. Spero che il governo metta nelle condizioni gli organizzatori di lavorare in sicurezza e per la sicurezza nel modo più adeguato ma anche accettabile, perché se diventa una cosa impossibile sarà durissimo. Per arrivare invece alla tua domanda, chi vedo protagonista? Beh, vedo io un Nibali così sereno, così bello in condizione, che abbiamo potuto appunto vedere, solo ammirare, annusare alla Parigi-Nizza, non lo vedevo da tempo. Sta correndo con uno dei team professionistici più forti del mondo, come è la Trek Segafredo, in un ambiente che lui ama. Si sente quasi rinato nonostante i suoi 35 anni, che non gli pesano affatto. Mi auguro di vederlo assolutamente protagonista al Giro d'Italia, sempre che il suo team decida per il Giro. Però sappiamo anche l'importanza e la valenza del Tour de France. E poi protagonisti internazionali, Julien Alaphilippe e questo Tadej Pogacar, che è uno dei volti nuovi del ciclismo nazionale, e Primoz Roglic. Direi questi sono i nomi, tra vecchi e nuovi, che potrebbero essere i protagonisti di questa stagione 2020 che mai stiamo aspettando. È stata così agoniata. Anche qui vale il discorso, insomma, io credo anche nell'effetto rimbalzo, cioè c'è talmente tanta voglia di vedere lo sport che nel momento in cui comincerà sarà un successo anche dal punto di vista mediatico. Vuoi aggiungere qualche nome a quelli che ha fatto Pier Augusto, Vincenzo? No, grandi altri nomi non ce ne sono, a parte magari le giovani promesse che stanno emergendo e chi è già ha fatto vedere quanto è forte, per esempio Bernal, non c'è altro da aggiungere. Poi vediamo, io quest'anno ero partito abbastanza bene, purtroppo la stagione sappiamo tutti come è andata a finire, c'era un bel programma, un bel progetto, quindi speriamo in una buona ripartenza, tutto qua. Un'ultima cosa, l'altro giorno parlando con Dovizioso mi diceva: noi stiamo soffrendo perché siamo programmati per correre, cioè noi che facciamo questo mestiere abbiamo dei chip interiori che ci dicono in questo momento della stagione, nella nostra vita corriamo. Sono da valutare le conseguenze di uno stop così lungo su quelle macchine così sofisticate che siete voi atleti professionisti, Vincenzo? Sì, in realtà è così, perché siamo sempre stati abituati a portare il fisico al limite, sia non solo fisicamente ma anche come mentalmente. Lo sforzo è un allenamento anche mentale, devi averlo proprio nella testa per poterlo fare. Quindi cercare di mantenerlo sempre attivo, questo non è semplice, specialmente chi lo fa come ormai naturalmente è diventato un lavoro, specialmente come un pilota di Formula 1, un pilota di moto. Quindi comunque sì, c'è l'abilità, madre natura, tante cose, no, però è un gesto atletico che va sicuramente allenato. E agonistico, credo, perché credo che anche l'abitudine... Molto agonistico, esattamente. Infatti oggi ero in allenamento, ho parlato proprio con Fabio, ogni tanto facciamo una salita un po' forte, che solitamente nell'allenamento non lo fai mai, ma è proprio per capire, per portarsi sempre su quel limite lì, perché è uno sforzo mentale che comunque devi cercare di averlo, perché se in testa non ce l'hai è difficile anche poi da raggiungere, ecco. Chiaro. Grazie Vincenzo, un abbraccio forte. Grazie davvero Vincenzo Nibali, grazie anche a te Pier Augusto Stagi, ci sentiamo presto. Grazie Carlo, ciao Vincenzo. Perché guarda che torniamo, guarda che lo sport sta tornando, che anche se qualche volta ci dicono il contrario. Grazie naturalmente a Claudia Schiattone, a Roberta Frisani, ci sentiamo domani, domani è sabato, non ci sentiamo per niente, ci sentiamo lunedì, tutti convocati alle 14. Venga, è stato una montana russa. Ciao, Radio 24. Saluti!